Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno e ben ritrovati, questo è Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che guarda il mondo di tutti gli animali, umani e non. Una trasmissione che va in onda da 8 anni e oggi siamo giunti alla puntata 542, nella quale parleremo della morte del gorilla simbolo dell'Uganda, di avvistamenti eccezionali, di proposte di legge atte a scoraggiare la corrida, dell'importante sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla direttiva Habitat. E parleremo poi di un passeriforme scoperto in Cina di circa 13.500 anni. Il tutto, come sempre, verrà squisitamente condito dalla ricetta del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, mentre la scaletta musicale è curata da Gianluca Masala. Sono sempre più numerosi i paesi dove molte specie di animali selvatici vivono in prossimità dei centri abitati e che si sono adattati a queste nuove condizioni. E contestualmente continua lo sviluppo delle infrastrutture umane e l'estensione delle attività che riducono l'habitat delle specie, esercitando una pressione sulla fauna selvatica. Una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha fatto però enorme chiarezza in merito all'ambito della tutela delle specie protette nella sua applicazione territoriale. Di che si tratta esattamente? La sentenza è stata pronunciata in seguito a un caso registrato nel 2016 in Romania, quando il personale di un'associazione per la protezione degli animali, in collaborazione con una veterinaria, ha provveduto senza autorizzazione alla cattura e al trasporto di un lupo solito aggirarsi nei pressi di un villaggio rumeno, situato in prossimità di siti protetti dalla direttiva Habitat. Il lupo però riuscì a scappare nei boschi durante il viaggio verso una riserva naturale e venne presentata una denuncia riguardo a questa cattura e trasporto avvenuti in condizioni non appropriate. La Corte di Giustizia, nella sua sentenza e a proposito della direttiva Habitat, ha quindi ricordato che gli Stati membri sono obbligati ad adottare i provvedimenti necessari atti a istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali protette nella loro area di ripartizione naturale, per cui vi è il divieto di qualsiasi forma di cattura o di uccisione nell'ambiente naturale. Così facendo, sostanzialmente, la Corte ha confermato che la direttiva Habitat non presenta limiti o frontiere. Quindi, nel caso di un esemplare selvatico appartenente a una specie animale protetta in prossimità o all'interno di zone popolate dall'uomo, non deve essere considerato un animale che ha lasciato la sua area di ripartizione naturale e di conseguenza è vietata la cattura deliberata di queste specie sia nell'ambiente naturale che in prossimità di aree popolate dall'uomo. Una sentenza che stabilisce un altro punto importante, ovvero che la cattura e il trasporto di un esemplare di una specie animale protetta come il lupo possono essere effettuati solo nel contesto di una deroga adottata dall'autorità nazionale competente. Un pensiero va immediatamente a Papillon, conosciuto anche come M49, l'orso trentino diventato tristemente famoso dopo la sua raccambolesca fuga da un centro faunistico in cui era stato portato dopo la cattura e da cui è scappato e rimasto latitante per 9 mesi, per poi essere definitivamente ricatturato. Catturato, è bene ricordare, per aver mangiato del cibo malamente custodito in alcune baite in alta quota e per qualche intrusione in baite non abitate. I've gone to ground, I'm watching Passeriformi più antico del mondo. Ornitologi, non emozionatevi troppo però. Stiamo parlando di fatti di un passerotto scolpito nell'osso bruciato, di una minuscola statuina. La scoperta è recentissima ed è avvenuta nel nord della Cina, a Linjing, secondo uno studio pubblicato su PLOS ONE. La statuina ha circa 13.500 anni, oltre 8.500 anni in più rispetto ad altre sculture di animali trovate nell'Asia orientale ed è giunta sino ai giorni nostri in un ottimo stato di conservazione, ed è lunga poco meno di 2 cm. La scultura non è una rappresentazione completamente realistica di un uccello. L'artista, ha spiegato Francesco Delrico, ricercatore del Centro Nazionale di Ricerca Scientifica dell'Università di Bordeaux, ha sovradimensionato la coda dell'uccello per consentire alla scultura di stare sul suo piedistallo. Ma ciò, dichiara sempre il ricercatore, implica già un livello avanzato nella pratica artistica. Pochi giorni fa la regione toscana è stata testimone di un piccolo miracolo. Una foca monaca è stata avvistata a Capraia, nell'arcipelago toscano. La segnalazione è arrivata da Fabio Guidi, redattore del portale visitcapraia.it, che ha immediatamente allertato il presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, inviando il video che conferma il secondo avvistamento a distanza di pochi giorni. Il 9 giugno del 2020, infatti, un turista aveva avvistato probabilmente la stessa foca e ripreso le immagini tramite il suo cellulare. Perché questo avvistamento ha creato tanto scompiglio ma anche così tanta gioia? Perché l'ultima visita documentata presso l'arcipelago risale al 2009, ma soprattutto perché la Monacus monacus, l'unica foca dei nostri mari, è uno dei mammiferi marini più rari al mondo. Nel Mediterraneo la foca monaca è riuscita a sopravvivere alle tante minacce alle quali sono ancora sottoposte le specie marine, per colpa del bycatch, dell'inquinamento, della scarsità di risorse alimentari e alla persecuzione diretta che nel passato ha quasi portato all'estinzione la specie il cui pericolo è sempre dietro l'angolo. Oggi l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura stima che ne siano rimasti circa 700 esemplari in tutto il bacino, compresi i nuclei dell'Atlantico, nell'arcipelago di Madeira e lungo le coste tra Marocco e Mauritania. L'avvistamento della foca monaca è un fatto eccezionale, ha commentato inoltre il presidente del parco Gian Piero Sammuri. Sono circa 50 anni che non si riproduce più in Italia e le ultime riproduzioni sono state sulla costa della Sardegna. E sempre da Capraia, un'altra bella notizia per un altrettanto importante avvistamento. Questa volta bisogna rivolgere il naso verso i cieli, dove è stato possibile osservare in questi giorni il gipeto, uno dei più rari avvoltoi d'Europa proveniente dalla Corsica. Thank you. Rafiki era uno dei gorilla simbolo dell'Uganda. Parliamo al passato perché purtroppo è stato ucciso proprio nell'impenetrabile Parco Nazionale di Buindi. Rafiki era uno dei gorilla più noti e amati del parco. Maschio dominante di circa 17 anni, era divenuto una piccola celebrità locale. Dall'indole pacifica e curiosa, questo esemplare non disdegnava il contatto con gli umani, avvicinandosi anche ai turisti. Non a caso, così come specifica l'Independent, il suo nome in Swahili significa proprio amico. Dal 1 giugno di quest'anno del gorilla non si hanno avuto più notizie, finché il corpo non è stato rinvenuto ormai senza vita pochi giorni dopo. L'autopsia ha rivelato danni irreparabili ai suoi organi interni dovuti a un oggetto appuntito, forse un coltello. Le autorità hanno arrestato 4 sospettati, uno dei quali ha ammesso di aver colpito Rafiki con una lancia. L'uomo ha dichiarato di essersi addentrato nella foresta per cacciare piccoli animali, quando all'improvviso sarebbe stato attaccato dal gorilla. Su questa ricostruzione stanno indagando le autorità, proprio poiché appare remota la possibilità che il primate possa essere passato all'attacco, dato il suo atteggiamento generalmente amichevole con l'uomo. Secondo la legge sulla protezione della fauna selvatica approvata lo scorso anno, rischiano l'ergastolo o una multa di 5,4 milioni di dollari se verranno giudicati colpevoli di aver ucciso un esemplare di una specie in via di estinzione. Lo riferisce BBC News Online, ricordando che rimangono poco più di 1000 gorilla di montagna, citando l'Uganda Wildlife Authority, secondo cui la morte di Rafiki rappresenta un brutto colpo. Il timore dell'Uganda Wildlife Authority è che la morte di Rafiki lascia instabile il gruppo di gorilla e vi è la possibilità che possa disintegrarsi. Non essendoci al momento una leadership, il gruppo potrebbe essere preso di sopravvento da un gorilla completamente selvatico. Se ciò dovesse accadere, la comunità di gorilla si allontanerebbe sempre di più dall'uomo, con il rischio di non poter approfittare paradossalmente dell'aumentata protezione della riserva in quel momento vive. Oh, Ai Gorilla è ispirata la ricetta di oggi, curata come sempre dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni all'interno del suo spazio etico gastronomico Il Pasto Gentile. E vi ricordiamo che tutte le ricette, così come le puntate, sono riascoltabili in podcast sul sito www.restiamoanimali.it. Il Pasto Gentile è un frigorifero senza crudeltà. Anche la ricetta di oggi, per l'ennesima volta purtroppo, è una dedica ad una vittima dell'insensata violenza umana. Un piatto originario dell'Uganda, terra natale di Rafiki, il re dei gorilla barbaramente ucciso dai bracconieri. Una ricetta semplice a base di platano, alimento ricco di amidi resistenti che abbondano nella dieta vegetale di uno degli animali più forti del mondo. Ingredienti per 4 persone per il matoke sono 8 platani, un cucchiaio di olio di cocco, 500 ml di brodo vegetale, il succo di un limone, 2 cipolle, del coriandolo e un peperoncino fresco. Sbucciate i platani e tagliateli a tocchetti di circa 8 cm di lunghezza ed immergete in acqua tiepida e succo di limone per 5 minuti. A parte affettate le cipolle e fatele scottare in padella con poco brodo vegetale e quando questo sarà evaporato unite l'olio di cocco e fate soffriggere per qualche minuto aggiungendo il peperoncino e il coriandolo. Unite i platani, scolate dall'acqua e limone e fate rosolare per 2 minuti, quindi unite tutto il brodo vegetale. Lasciate cuocere a fuoco lento per 30 minuti. Servite caldo con del coriandolo fresco tritato finemente. La primavera del 2020 per alcuni animali è stata un piccolo toccasana. Alcune specie si sono riprese, anche se per poco tempo purtroppo, nuovi spazi e alcuni spettacoli che vedevano gli animali come infelici protagonisti sono stati sospesi. È il caso della corrida, per esempio, che è stata sospesa poiché non potevano essere rispettate le norme sul distanziamento sociale. Purtroppo è servita una pandemia per far saltare questo palinsesto, ma si tratta appunto di una sospensione. Ma la pandemia è stata anche un pretesto, forse, per rilanciare una campagna contro le corride, almeno in Colombia. Nelle scorse giornate, infatti, il Consiglio Comunale della capitale Bogotà ha approvato misure atte a scoraggiare i maltrattamenti sui tori e ora questa proposta di legge, per diventare legge a tutti gli effetti, deve passare prima dalla firma della sindaca Claudia López. Poiché le autorità locali non hanno il potere di vietare questo tipo di spettacoli, la proposta di legge ha trovato una sorta di escamotage, ovvero rendere le corride sconveniente agli organizzatori, che con queste nuove direttive vedranno accrescere i costi strutturali. Le attività dovranno essere svolte, per esempio, solo nelle date stabilite dal comune, che non potranno superare le 3 domeniche all'anno. L'aliquota fiscale applicabile alle corride subirà inoltre un aumento del 10% e tutte le spese operative degli eventi di corrida saranno sostenute dall'organizzatore. L'organizzatore di qualsiasi evento di corrida dovrà inoltre utilizzare il 30% dello spazio pubblicitario per segnalare la sofferenza subita dagli animali durante questi eventi. Infine, il distretto di Bogotà promuoverà iniziative per condannare pacificamente le pratiche della corrida. In Colombia la Corte Costituzionale ha riservato però al Parlamento il potere di proibire la corrida nel paese. Padilla, la consigliera che ha presentato l'iniziativa, ha assicurato che l'eliminazione degli strumenti di tortura e le altre misure sono un primo passo per iniziare a scoraggiare la corrida. Sappiamo che questa proposta, ha dichiarato Padilla, susciterà accese discussioni legali, ma difenderemo l'autonomia territoriale di Bogotà per rendere più rigorosa la protezione degli animali. L'ultima isola italiana ad ospitare un carcere completa il suo percorso di riconversione. Per chi non conoscesse l'isola carcere, vogliamo ricordare brevemente la sua storia. Molti anni fa, grazie all'illuminazione di un veterinario, Marco Verdone, e al direttore del carcere, fu lanciato l'esperimento di una fattoria didattica. I reclusi si affezionarono e svilupparono una relazione non fondata sull'utilizzo e l'uccisione di questi animali. Col passare del tempo, Gorgona era arrivata ad essere il carcere con la più alta percentuale di persone che una volta uscita non ritornava più in carcere. 5 anni fa, una nuova direttrice aveva bloccato questa felice esperienza e ripreso le riproduzioni di questi animali, che poi si sono moltiplicati. Di fatto si stava sviluppando un allevamento intensivo, con un associato mattatoio. E così sull'isola carcere venivano allevati e macellati centinaia di animali ogni giorno. Dopo anni di lotte, chiusure, retromarce e trattative lontano dai riflettori, finalmente l'isola carcere di Gorgona sarà di nuovo un modello di coesistenza fra esseri umani e animali. La LAV, la Lega Antivivisezione e la direzione del carcere avevano firmato un protocollo d'intesa che prevedeva il trasferimento di gran parte degli animali in terraferma, la chiusura definitiva del macello e l'impiego degli animali rimasti sull'isola in progetti di interazione con i detenuti. L'accordo quadro è stato finalmente firmato il 15 giugno del 2020 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e consentirà di avviare nel corso di quest'estate le altre iniziative previste dal piano. Già da inizio luglio i detenuti potranno prendersi cura degli animali rimasti sull'isola, circa 150, ospitati in un rifugio gestito dalla Lega Antivivisezione, che ha già trasferito alcuni degli altri 450 tra polli, bovini, cavalli, pecore e galline. Grazie alla collaborazione con il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, che ha stanziato 90.000 euro, i detenuti potranno inoltre essere impiegati in lavori di manutenzione dei sentieri e dei boschi dell'isola, un'attività che va ad aggiungersi a quella già avviata del vigneto biologico di un'azienda vinicola locale, gestito dai detenuti, impiegati con un regolare contratto di categoria. Nell'accordo è prevista anche una convenzione con l'Università di Firenze, il Parco dell'Arcipelago Toscano, il Comune di Livorno e l'azienda Servizi Ambientali per alcuni studi volti a completare il passaggio verso l'autonomia energetica dell'isola, sviluppare il recupero delle acque reflue per riutilizzarle in agricoltura, gestire i fanghi di depurazione e valorizzare le diverse culture dell'isola. Thank you. chiudiamo la puntata ricordando Giulio Giorello, filosofo, matematico, accademico, epistemologo italiano. Giulio Giorello qualche anno fa, nel pieno della nostra campagna Salve i Selvatici contro la legge della regione toscana che intendeva sterminare molte migliaia di ungulati, ci inviò un messaggio non formale di adesione che abbiamo voluto ripubblicare sul nostro sito e che trovate disponibile in home page. Con questo è davvero tutto per oggi, noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana con la redazione di Restiamo Animali, che è composta da Roberta Marino, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Gianluca Masala, Camilla Lattanzi e Francesca De Matteis, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 543 di Restiamo Animali tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.